11강 어휘 안노 appartamento �ambina bambino borsa cellulare centro chiave cognome cuoco dizionario famiglia figli figlia figlio fratello indirizzo ispettore lavoro macchina madre marito moglie nome numero padre pallone pantaloni portafoglio soldi sorella studio telefono bravo caro simpatico rosso 문형 È tuo questo? Sì, è mio. È di Paolo questo portafoglio? No, non è suo, è di Enzo. Sono rossi i tuoi pantaloni? Sì, sono rossi. Dove sono le borse di Angela e Paolo? Le loro borse sono nel mio studio. Di chi è questa chiave? È mia. Deva. Di chi è questa macchina? È mia, ispettore. Qual è il suo nome, signore? Il mio nome è Fabio Alberti. Signor Alberti, qual è il suo numero di telefono? Il mio numero di telefono è 02 112 33345. Il mio numero di cellulare è 010 123 45678. È con la sua famiglia qui a Torino? Sì, sono con la mia famiglia per lavoro. Questa è mia moglie. Quanti figli ha? Ho un bambino di 7 anni e una bambina di 3 anni. Qual è il suo indirizzo? Via 4 Settembre 126.